Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Era il 2002. Quell'anno l'estate arrivò in fretta sul Golfo di Cagliari. Chiusi in un cassetto il pensiero di iniziare a cercare un lavoro serio. Volevo godermi il mare e il sole. Non avevo idea di cosa volevo fare e soprattutto di cosa volevo essere. Mi chiamo Domenico, vivo a Como, ho 36 anni tra qualche giorno e lavoro per un'industria chimica come responsabile commerciale. Il giorno in cui ho lasciato la mia città per partire a cercare lavoro me lo ricordo benissimo. Era una mattina di febbraio, anni 60. 19 anni, 6 amici, i soldi necessari per un biglietto del treno. 36 ore per arrivare a Milano, provenienza Trapani. Un lavoro di manovale edilizio promesso, un datore di lavoro non trovato all'arrivo, a Monza. La ricerca di un alloggio, il rifiuto di albergatori quando erano i miei amici con accento meridionale a cercarlo. E poi la decisione di entrare da solo in albergo. Albergo stazione, unico mio merito parlare un italiano senza accenti e finalmente dormire in un letto. Poi la mattina si fa vivo il caporale, perché tale era, che ci smista nei vari cantieri edilizi. 250 lire all'ora, senza libri, praticamente come si dice adesso in nero. Io finisco a lavorare nel parco di Monza, alla costruzione di una piscina. Così cominciò la mia avventura al nord. Questo è un messaggio che è arrivato sul profilo Facebook del programma, che Voi Siete Qui Radio 24, che ha scritto Francesco. Lo ha scritto perché oggi parliamo di questo, parliamo di quel momento che tutti quelli che hanno una città che hanno lasciato per andare in un altro luogo a lavorare, a vivere, un momento che tutti quelli si ricordano bene. Tutte quelle persone che un giorno hanno detto, vabbè, qui il lavoro non lo troverò mai, qui non posso costruire una vita. Sono saliti su un treno, su un aereo, o su una nave, o su un'automobile, o su un autobus, vabbè, sto dicendo tutti i mezzi di trasporto, qualunque sia il mezzo di trasporto che hanno scelto, e hanno raggiunto un'altra città. Ecco, quel momento preciso lì, tutti se lo ricordano bene. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, sono le 16:10 minuti in punto di mercoledì 11 dicembre del 2013. Io sono Matteo Caccia, abbiamo dei profili Twitter, quello del programma e Voi Siete Qui R24, il mio è semplicemente Matteo Caccia, invece 349-238-6666 è il numero per mandare un sms per raccontare in poche battute e in poche parole quel momento, il momento in cui avete lasciato casa vostra, la vostra città o paese o villaggio, anche se è un po' vetusta come definizione, per andare in un altro luogo, in un'altra città. Ad esempio Barbara racconta di Trento: al mio primo colloquio la città di Trento non la volli neanche vedere, non volevo che mi condizionasse. Dopo il secondo, quando capii di avere ottime chance, mi precipitai in stazione, anche se ero in larghissimo anticipo, e piansi fino all'arrivo del treno. Il lavoro si rivelò un bluff, ma poi ne arrivò un altro e poi arrivarono persone belle e la scoperta che quando smetti di scappare, ogni posto che ti ha accolto diventa bellissimo. Lindsay Reyes, se l'ho pronunciato bene, era un 19 febbraio del 2007, partenza da Cusco in Perù, arrivo a Torino, un contratto di lavoro come golf. Avevo 22 anni e lavoravo nella reception di un ostello. E adesso sono ancora qui, in questa bella città, e grazie a Dio ho buona salute, un lavoro e tanto da vivere. 349-238-6666. Il viaggio in treno che avete fatto, quelle ore passate per raggiungere una città che non conoscevate, che di solito è grigia nel nostro immaginario, è quasi sempre una città grigia, un po' perché è una città in Italia, è proprio costume venire dal sud, venire al nord per cercare un lavoro. Purtroppo è una sorta di piaga che c'è da secoli, da quantomeno da decenni, e quindi il nord agli occhi di chi vive al sud, anche a ragione per certi versi, è un luogo grigio. Quindi quelle ore trascorse su quel treno, oppure i primi momenti appena siete arrivati in una città che sembrava ostile, invece adesso è semplicemente la vostra città. 349-238-6666, prendetevi 10 minuti per ascoltarla, perché la storia di Domenico, che è la storia di un sardo che parla della sua Sardegna, parla della sua città che è Cagliari, ma parla soprattutto di un luogo al nord che era pieno di neve e che all'inizio lo spaventava. L'anno in cui la mia vita cambiò iniziò con lo scirocco di una primavera anticipata. Era marzo e mi stavo laureando. Avevo 25 anni e mi chiedevo cosa avrei fatto dopo la laurea. Io che avevo passato 19 anni a studiare e non sapevo cosa sarebbe stato dopo. Spedì il mio curriculum in giro, via posta, via mail. Nessuno, neanche dopo anni, rispose mai. Per tirare fuori l'affitto in città e non dover tornare al paese dai miei, continuavo a fare qualche lavoretto. Volantinaggio, soprattutto. Era il 2002. Quell'anno l'estate arrivò in fretta sul Golfo di Cagliari. Chiusi in un cassetto il pensiero di iniziare a cercare un lavoro serio. Volevo godermi il mare e il sole. Non avevo idea di cosa volessi fare e che cosa volessi essere. Mi sono laureato in scienze politiche. Non sapevo nemmeno io quale fosse il lavoro dei miei sogni. Mi sono trovato poi a studiare economia e da lì cambiò tutto. Settembre poi portò le domande insistenti dei miei genitori su che cosa avessi intenzione di fare da grande. Io però continuavo a rispondere che non ne avevo un'idea. Ma a 25 anni e con l'università terminata non può più essere una risposta legittima, né per mamma né per papà. Poi una sera, a cena, davanti alla solita discussione, mi venne un'idea. Provai a prendere ancora tempo. E quindi la buttai lì così. Faccio un master, dissi. Prendo una specializzazione post laurea. Vado a finire di studiare fuori, in continente. I miei mi guardarono stupiti. Non so se capirono, ma si fidarono come hanno sempre fatto con noi tre figli. Sono stati i primi a prendere sul serio il mio bluff, tanto che poi ho finito per crederci pure io. In capo a 2 mesi stavo sopra un aereo che mi portava a Milano. Era dicembre e faceva troppo freddo per un sardo appena atterrato al nord. Raggiunsi in treno Reggio Emilia, dove feci un test di ammissione per un master che sarebbe iniziato a gennaio. Sotto la camicia avevo la maglia di lana, a maniche lunghe. Ancora oggi sorrido a pensarci. Da Reggio puntai il treno verso Gorizia, andavo a trovare un amico fraterno. Là faceva ancora più freddo. Un vento gelido e umido saliva dal fiume. Un freddo mai provato prima. 2 giorni dopo attraversavo ancora in treno l'Italia, da est a ovest, questa volta verso il Piemonte, Torino e poi Alessandria. Feci un colloquio di ammissione per un secondo master. Sono partito il giorno della Befana del 2003, quasi 11 anni fa. Lo dissi a tutti, ma tutti mi sconsigliarono di andare via. Nevicava quella notte di dicembre ad Alessandria e io non ne avevo mai vista tanta in vita mia. Io che sono nato a Muravera, in Sardegna, sul mare. Quella notte dimenticai di colpo tutto il freddo, affascinato da quella pioggia di neve scintillante, soffice, che copriva tutto lentamente. Ero lontano da casa a tirare i dadi della mia vita e quella neve mi aveva ammaliato. Quando seppi che mi avevano preso a tutte e due i master, non ebbi dubbio su quale scegliere, neanche per un secondo. Quella neve mi aveva scelto e io avevo scelto lei. Finito il master, iniziai a lavorare subito. Fu la mia grande chance, quella che mi cambiò la vita. Dopo Alessandria ho vissuto e lavorato in Romania, Bergamo, Shanghai, Lugano, Como, San José dos Campos. Io, che fino a 25 anni, non avevo mai visto la neve. I may be loose, I'm not a cannon, but I can be quiet saying my name. There are the ways, where is the balance? Maybe everyone. C'è stato un momento in cui ho pensato che qui a Milano fossero finite le cose da fare per me. Mi sembrava che con la città ci fossimo fatti una specie di promessa, poi ce ne fossimo dimenticati e non l'avessimo mantenuta. E così ho preso e sono andato a Roma. Fino ad allora mi ero sempre tenuto lontano, però sapevo che prima o poi sarebbe successo. Trovai un monolocale al Villaggio Olimpico. Da quando hanno aperto il Maxi, l'auditorium è diventato uno dei quartieri emergenti di Roma, ma fino a pochi anni fa il Villaggio Olimpico era una specie di periferia buttata per un caso vicino al centro. La mia padrona di casa era la signora Porfidia. Nei primi tempi passava quasi tutte le mattine. Mi presentava a tutti, dal panettiere al barbiere, dall'edicola alle bancarelle del mercato rionale. Qualche volta riuscivo a schivarla, ma il più delle volte non ce la facevo e quindi uscivamo insieme a fare la spesa. Lei sapeva sempre di cibo buono. E ho sempre pensato alla parola raccomandazione nella mia vita con un'accezione negativa. Invece per la signora Porfidia era una forma di educazione nei miei confronti. Cioè non lo faceva per un tornaconto personale. Voleva solo rendermi parte della sua comunità. E ho capito che ce l'aveva fatta quando il pizzaiolo sotto casa ha cominciato a regalarmi gli ultimi pezzi di pizza prima di chiudere. Mi muovevo in bicicletta quando mi perdevo cercavo il Tevere per orientarmi. Dai ponti, ancora meglio se è notte, la bellezza di Roma si esprime al meglio. e se non trovavo la strada giusta mi consolavo guardandomi intorno. Un amico mi portava la sera al Circo Massimo. Il Circo Massimo è un rettangolo di prato con delle strade intorno che piace un sacco ai romani, ma che non esercitava nessun fascino su di me. A me piaceva di più attraversare la città, Trastevere ovviamente, Campo dei Fiori, Villa Borghese, Piazza Vittorio, e poi mi piaceva tornare al Villaggio Olimpico. La bellezza del villaggio è che è un quartiere estraneo alla città. È l'unico quartiere centrale dove Roma non si mostra per quella che è. Cioè, a Roma ogni parete, ogni angolo, ogni mattone hanno assorbito secoli, millenni di storia. È una città così piena di fascino, di bellezza, di storie, che può risultare anche ingombrante. Il Villaggio Olimpico, invece, è stato costruito per le Olimpiadi del 60, 1960, quindi è recente, però ha già superato da un pezzo l'appeal della modernità. Quindi la sua storia è più a misura d'uomo, ha quasi la mia età. Poco per volta sono entrato poi nelle case di Roma. E le case dei romani assomigliano un po' alla città. Sono case affollate di segni, di oggetti, di colori, fiori, quadri, mobili, cibo, cose belle da fare e da vedere. Dalla garbatella ai parioli non c'erano mai storie noiose. Io ero abituato da sempre a uscire per fare qualche cosa. A Roma invece uscivo per non fare niente. Per questo a Roma è più difficile sentirsi soli. Ormai è inutile cercare un ordine, è una perdita di tempo, Roma è un po' un rebus. È il contrario di una città funzionale. Se le città sono nate per dare ordine al caos, diciamo che Roma ci ha rinunciato. Le risposte che ti dà quasi mai sono quelle che ti aspetti. È impossibile cercare una verità. A Roma si pesca a strascico, tanto tiri su e tanto lasci in mare. Ogni città nasconde per chi ci arriva dei desideri e delle paure. A Roma è inutile distinguerle. I desideri sono le stesse paure. Roma ti offre sempre e comunque una via di fuga in leggerezza. Io ci ho vissuto un paio d'anni, poi sono tornato a Milano. Non me lo sarei mai aspettato, ma è successo anche a me. Io sono impazzito per Roma. È una foto strana quella di Domenico che ci ha mandato e che ovviamente trovate mentre ve la descrivo immediatamente sul sito di Radio 24, la pagina di Voi Siete Qui. È strana perché non capisco se è un autoscatto o se gliel'hanno fatta, ma soprattutto è strana perché lui ha, diciamo, si vede appena il collo, però è chiaramente vestito da lavoro, ha una giacca e una camicia bianca, ma sembra uscito dal Fight Club. Ha la testa leggermente inclinata e lo sguardo direi quasi di un serial killer. Pronto Domenico? Ciao Matteo. Come stai? Bene. Dove sei in questo momento? Sono in ufficio, nello stesso posto della foto che dicevi. Ah, sei esattamente qua. Senti, quindi la faccia del serial killer è semplicemente l'hai dedicata a noi, cioè hai fatto questa foto per noi. Qualcuno riderà su questa cosa, però sì, dai. Anche tu mi sembra che stai ridendo. Senti, sei nell'ufficio della foto, cioè dove esattamente? In Svizzera, a Mendrisio. A Mendrisio, che è vicino a Lugano. Sì, è vicino a Lugano, è vicino a Como, dove vivo. Mendrisio, patria del... Non lo so, te lo chiedo, cioè, ma Mendrisio... Cioè, no, beh, c'è una famosa facoltà di architettura a Mendrisio. Sì, questo giusto? È okay. Una facoltà di architettura una molto roba... importante, un centro commerciale molto importante, che è il Fox Town. E i casinò ci sono a Mendrisio? Sì. Il casinò di Mendrisio. Immediatamente suona familiare. Ti va se facciamo un passo indietro, Domenico, sì, e guardiamo tutti i luoghi in cui sei stato? Nel senso che il tuo racconto, che è anche molto poetico, perché a parte che oggi a Milano, immagino anche da quelle parti, fa proprio... è dicembre, come quando tu arrivasti nel 2002, e fa un freddo con un'umidità orribile. Tu partisti quindi da Cagliari, giusto? Sì, da Cagliari. Quanto dista Muravera da Cagliari? 70 chilometri, possiamo dire, dai. Ed è, perdonami l'ignoranza, è a sud-ovest? È a sud-ovest. Sud-ovest. Muravera, Cagliari. Okay. Cagliari no, più o meno so dov'è. E poi tu ti sei fatto, proprio leggo in ordine, Romania, Bergamo, Shanghai, San José dos Campos, Lugano e Como. Mi dici perché, come, cioè, con la stessa azienda hai cambiato lavoro? Sì, con la stessa azienda, perché lavoro per un'azienda multinazionale, ho avuto la fortuna quindi di poter stare presso le consociate estere alcuni periodi. Ok, ed è un'azienda chimica, giusto? Sì, è un'azienda chimica di trasformazione che opera nel settore della plastica. Ah, non ha nulla di farmaceutico? No. Ah, peccato, mi eccitano sempre le farmaceutiche. Nel senso che tu pensavi, la Svizzera. Sì, esatto, la Svizzera, questa Shanghai. San José dos Campos dove si trova? È in Brasile, a 100 km da San Paolo. E quanto ci sei rimasto? Qualche mese. E com'è San José dos Campos? Un bel posto? Molto bello, bellissimo, però devo dire che il tema della sicurezza lì è molto importante, è un posto splendido, come puoi immaginare, però veramente ti possono rapinare per 5 euro in tasca e tirare una coltellata. Senti, invece Domenico, adesso noi ti sentiamo tra l'altro con questo tono ammaliante, da persona che chiaramente è in ufficio e non può urlare troppo, giustamente, però nella storia che tu ci hai mandato, di fatto... Tu 11 anni fa, nel 2002, ti disegni un po' come un cazzaro, cioè uno che a 25 anni non sa esattamente cosa vuole fare e tu stesso dici, per prendere tempo, dico vabbè dai ragazzi, sapete cosa, faccio un master. Sì, è vero, è vero, è vero, nel senso che, come puoi immaginare, per uno che studia medicina il suo sbocco è chiaro, idem che studia giurisprudenza o altre materie scientifiche, però per chi studia scienze politiche, per chi ha studiato scienze politiche, lo sbocco non è così immediato. Mio padre addirittura pensava che io volessi fare il politico, niente di più lontano. E beh, un po' i padri di tutti, della nostra generazione, un po' tutti i padri di conoscenze politiche, quindi poi vuoi fare che cosa? Il segretario di partito? O il diplomatico, erano sempre due le strade. Margherita ha fatto scienze politiche, infatti adesso è nella redazione di Voi Siete Qui ed ha una valenza quasi politica. Scusa Domenico, ma concludi pure. No, ecco, certo, hai ragione. Però devo dire, poi io sono finito a fare tutt'altro, cioè sono responsabile commerciale per questa azienda. E devo dire che anche se non ho fatto una laurea scientifica, non ho studiato chimica, che è il settore per cui lavoro, devo dire che per il mio lavoro in questi anni mi è servito sicuramente di aver studiato scienze politiche, sociologia dell'organizzazione, psicologia e cose del genere, assolutamente certo. Molto di più. Mischiare i generi, insomma, un po' quello che succede a tutti, che la strada non è mai dritta per arrivare a fare quello che poi farai. Esatto. Domenico, e poi ti saluto, l'ultima cosa è quante volte ci torni a Muravera? Ci tornerò anche tra una decina di giorni, ci per Natale. Volentieri per Natale e poi ovviamente ad agosto. Ovviamente, immagino, non è estate se non torni in Sardegna. Esatto. Domenico, esatto. Ti ringrazio per la storia e ti auguro in bocca al lupo per tutto. Ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao, ciao. Davide da Conegliano Veneto, Treviso, mi dice: ciao Matteo, sono partito 4 volte, 2 in alto, 2 in auto e 2 in aereo. Vuole essere preciso, giustamente, perché prima li ho detti tutti. Germania, Austria, Gran Bretagna e Stati Uniti. Ho lasciato Taranto come quasi tutti quelli della mia generazione. Avevo paura, ma oggi so di aver fatto la cosa migliore, senza rimpianti. Pierpaolo. E poi invece chiudiamo con un viaggio breve di Vabbè, c'è nome e cognome. Comunque, viaggio breve, soltanto 50 km dalla montagna Pistoiese a Viareggio. Avevo 11 anni ed era la prima volta che vedevo il mare. Non lo potrò mai dimenticare. Una enorme emozione. Io vi ricordo che potete scaricare il podcast di questa trasmissione dal sito di Radio 24, dalla app di Radio 24, da iTunes, ovunque vogliate prendervi il file, portarvelo dove volete, potete farlo per riascoltarvi la puntata in qualsiasi luogo. Altrimenti in streaming dal sito di Radio 24, tanto ormai siete sempre connessi. Scaricate il programma, raccontate storie e inviatela. Voi siete qui, @radio24.it. Grazie a Paolino Corleone, Tiziano Bonini, Margherita Hina. Grazie soprattutto a Domenico. La storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Sono Mirka di Venezia, la storia di domani è la mia e parla di come trovarsi in deserto da soli. Questa è la mia storia e io sono qui. Franco Rosso, la vacanza con qualcosa in più. Vi ha presentato... Voi siete qui.